L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mia mamma è vegetariana e animalista e io ti ascolto tutti i giorni a massimo volume e lei ha incominciato a odiarmi. Rauciani, stai rovinando una famiglia. Aiuto, aiuto! Il mio papà ascolta sempre la zanzara, è impazzito! Allora, voglio riprendere una frase di Renzi di qualche giorno fa, sai quando parla con quella diretta Facebook là, che cavolo è, la diretta web? Sì, Matteo risponde. Matteo risponde. Risponde, sì, allora, Renzi ha detto... risponde, Parenzo risponde. Cioè. Ma sì, vabbè, insomma, sì. Una cosa... Intanto buonasera e buon weekend per tutti coloro che stanno andando al mare o in vacanza. Buonasera. Buonasera, buon weekend. Nuova stagione, nuovo inizio. Ma io ti mando a fare in culo. No, ma tu non devi, mai dire buonasera. Venerdì verrà detto buonasera, ma, e buon weekend. Ma tu non devi dire affatto buonasera. Cioè, certo. Questa è una trasmissione dove buonasera, buongiorno. No, da oggi sono c'è cose educazione che vanno fair play. E fair play. Allora, mi scusi se pipopo. Renzi sì. Dice che prende 100.000 euro all'anno. Uno gli chiede quanto guadagna lei, presidente del consiglio, e lui dice 100.000 euro l'anno. Risentiamo questo passaggio perché poi voglio dirvi una cosa. Tu quanto prendi? Io prendo 5.500 euro. No, questa è. E più ho una. Alla fine il mio stipendio complessivo lordo è di circa 100.000. Credo la mia dichiarazione che ti sia 100.000 o 105.000 euro. Devo controllare, la metterò però su internet così che sia chiara. È un po' meno di un parlamentare, ma un ottimo stipendio. Allora, 105.000 euro, dice Renzi, più o meno, quanto guadagna il... Ma spero che siano netti, però, o lordi, secondo te? Secondo me no, netti. lordi. Lordi, 105.000 sì. euro lordi? Sì, cioè, tu sì. Fai il presidente del consiglio e guadagni 105.000 lordi? Mi pare di sì, mi pare che sia così. Ma sì. No, ma saranno netti, dai, ragazzi. No. Lordi. Ah, l'ha lordi. Detto lordi, no, dice che ha detto lordi. Vai. È così, è lordi. Ma no, è quello, si sa. Comunque, vabbè, questo qua è naturalmente una mossa ad hoc, no? Perché vuoi comunicare che il tuo stipendio, insomma, non è uno stipendio così scandaloso, perché non c'è solo una persona, dai, che può pensare che il presidente del consiglio... no, debba guadagnare di meno di quello. Secondo me dovrebbe guadagnare addirittura di più. Ma guarda che in tutta Europa è così, non è che, Cameron. Però Holland, l'altro giorno mi ricordo, mi voglio collegare a questa roba qui, perché l'altro giorno ho letto un articolo. Non so quanto sia le cifre hai siano letto esatte. Adesso. Ho letto, sì, mi capita ogni tanto, sempre letto, meno, ma mi capita. Il super jet di Renzi non decolla, spreco mensile da 1,3 milioni. E allora, amico mio, qui c'è da incazzarsi. A parte che ti dico che secondo me gli aerei di Stato andrebbero quasi aboliti, sempre aerei di linea e in caso Skype. Questa è la regola, per me dovrebbe essere. Skype, in particolare in paesi che hanno in parte sì, certo, Skype, i colloqui tra i capi di Stato si possono fare normale. Anche via Skype. In questo caso Grillo ha ragione, guarda, assolutamente normale. In Iran fai con Skype, è evidente. Ma di cosa parli? colloqui si possono fare anche magari si fanno anche, ma poi il face to face, comunque vabbè dai. Comunque il superjet non serviva, questo lo dici, lo ammetti anche tu, oppure serve il superjet? Una volta hai detto che serviva il superjet per il presidente Cogliari. Sì, no, io su questo sì ma te posso anche ripeterlo, perché io su questo, cioè, sono, serve il superjet, le istituzioni, il presidente Obama è l'Air Force One e dunque no? L'Air Force Renzi pure serve, cioè in generale le istituzioni vanno trattate da istituzioni, poi gli sprechi vanno condannati. Scusa, tutti, però allora, le istituzioni sono istituzioni, quello del presidente del Consiglio non è Cruciani che può prendere la metropolitana, capito? Allora, presidente del Consiglio va il direttore di una grande azienda, ad esempio, di un'azienda privata. Cioè, secondo me ha fatto bene Renzi a farsi questo superjet. Ma no, ma adesso bisogna vedere quanto ha speso. Però no, soprattutto non parte ancora. Quanti fermo sono a terra? Gli imprenditori, i nostri amici, editori che hanno l'aereo privato? Quelli sono soldi loro. Ho capito, ma quelli non hanno tempo da perdere, da prendere la linea. Comunque, il 44. Questo Airbus 340-500, come diavolo si chiama, è ancora fermo a terra, bloccata l'immatricolazione in Italia. Praticamente costa 44.000 euro al giorno tutto compreso, 1,3 milioni al mese buttati dalla finestra per il momento, perché non parte, non può partire, ancora ferma l'immatricolazione. Vabbè, iniziamo così. È venerdì, domenica pare che ci sia un referendum, sembra, a me non me ne fotte assolutamente nulla. Beh, mi dico la verità, ma diciamo qualcosa, nulla. Voglio che fallisca il referendum, voglio che il referendum fallisca. Dunque non andrò a votare, ecco. Io sono un po' dell'idea, io andrò a votare e voterò no invece. Allora, questo l'hai già detto, io sono un po' dell'idea del tuo amico Rondolino, bisogna trivellare tutto e senza nessuna metafora. Detta così, ecco appunto. A me piace solo un certo tipo di trivellazione. Vabbè, questa, cioè, una battuta molto facile, lo so, però piace anche la trivellazione petrolifera. Non vedo qual è il problema, sempre rispettando le autorità civili, politiche, militari e ambientali in questo caso. La mia personale opinione è che, è che bisogna trivellare tutto, nel senso che la natura ci offre le sue ricchezze naturali, come noi raccogliamo la frutta e la verdura, secondo me è anche giusto che raccogliamo il gas e il petrolio. Leggo da Dago Spia che la fine della storia d'amore tra Sallusti e la Santanchè ha un nome e un cognome. Si tratta di Dimitri d'Asburgo Lorena, marito Quanta di Patrizia, gente? Migliore Dimitri? Amica della pitonessa. Dimitri d'Asburgo Lorena. Ma sono tanti, sono. È Dimitri uno solo. D'Asburgo Lorena. Lorena, sì, pare che la pitonessa, cioè la Santanchè, se la faccia con questo signore, questo Dimitri, e insomma no, si è rotto il sodalizio. Però tu hai non una credo. Tesi su questo. Una tesi, la rottura della storia d'amore tra... La fine della storia d'amore tra Sallusti e la Santanchè, c'è una chiave, la chiave di Parenzo, la lettura di Parenzo, qual è? No, io penso che sia una strada, penso, perché sono tutte supposizioni, vabbè, non so vabbè, niente. Abbiamo capito. Dunque... Ma magari è una trovata pubblicitaria, interessante anche per lanciare il libro, non lo so, magari potrebbe essere anche questo, non... C'è una trovata pubblicitaria, no, per lanciare io il libro, fossi, della Santanchè. No, io fossi nella condizione di dover lanciare il libro. Adesso uscirà tra poco, no? Un libro. Sì, della... vabbè, ho capito, ma tanti libri non si vendono. Comunque, è una trovata pubblicitaria per il libro. Io farei così. Io per lanciare... Getterei in pasto la finta rottura. Però deve essere una grande cosa, una grande atto di comunicazione. Mica è una cosa da mascalzoni, anzi, è una cosa. Una cosa. Così. La trovata, come si chiamano? Campagne pubblicitarie, come si chiamano? Sì, non so, sì. Io non faccio quel mestiere lì, però. Allora, mi è arrivato nei giorni scorsi questo messaggio, che è veramente incredibile, riguarda una televendita. Ed è la televendita. Ormai sei il ricettacolo. No, ma è incredibile. Qualunque... Perché ma è la vendita, dei rosari. Stiamo vendendo la Radio 24! D'accordo? La vendiamo con il nuovo presidente! Vi diamo anche Sebastiano Marisoni, che può venire a casa vostra, d'accordo? 1 milione di euro ve la vendiamo, ma oggi la svendiamo solo 20.000 euro per oggi. 20.000 euro e 1, 20.000 euro e 2, 20.000 euro e 3. Se la giudica la signora malata da Bari. D'accordo? La coroncina di Santa non so che cosa. Cioè vendono praticamente la voce di Papa Francesco in una specie di aggeggio piccolino a 59 euro. Cioè la vendita di Cristo, la vendita della religione. Cioè uno dovrebbe comprarsi una roba che recita delle preghiere. Vabbè, perfetto, la tecnologia al servizio della religione. 60 euro per una puttanata del genere. Vabbè, adesso però scusami, ma quelli che si comprano, ma no, ma io non vedo niente di strano. Anzi, vedo un ammodernamento della... Senti questa roba, l'hanno ritirata dopo 2 giorni. Questo numero verde che c'era non c'è più. Dalle rivelazioni private di Santa Faustina nasce la Coroncina della Divina Misericordia, una richiesta da parte di Gesù di diffondere una particolare preghiera in grado di avvolgere con la sua misericordia tutte le anime che la reciteranno. Direttamente dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia, a Roma, vi presentiamo l'unica e originale coroncina elettronica della Divina Misericordia, incluso uno speciale messaggio di Papa Francesco. Com'è bella questa realtà della fede per la nostra vita. Ti rendi conto, no? Uno si dovrebbe comprare un aggeggio dove dentro c'è la voce del Papa a 60 euro. Edizioni Paoline, che è direttamente legata al Vaticano. Continuiamo, continuiamo, andiamo avanti. Da quando ho la coroncina della Divina Misericordia, mi basta stringerla al petto e sentire il suono per trovare conforto. Recitare la coroncina della Divina Misericordia vi aiuterà a superare dei momenti difficili in famiglia e a ricordarvi che l'amore vince sempre su tutto, anche quando sembra impossibile. Le parole di Gesù dettate a Santa Faustina saranno il faro nella notte per i vostri amici che si sono persi. La mia misericordia avvolgerà in vita, e specialmente nell'ora della morte, le anime che reciteranno questa coroncina. Mamma mia, ragazzi, proprio la vendita a 60 euro della voce di Papa Francesco, il rosario, Santa Faustina, che non so chi sia, una roba incredibile. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Ciao Cruciani, volevo chiederti una cosa. Se al referendum delle trivelle vincono i sì, poi Rocco Siffredi non potrà più lavorare? Allora, l'altro giorno, Parenzo, sono andato in un ristorante, ho incontrato il professor Antinori. Ti ha pagato? Beh, no, io no, certamente io no. Certo. No, siamo andati al ristorante, sì, molto buono a Milano di Pesce, dove c'era il professor Antinori. Si è presentato, Severino Antinori. Parla, sì, ti fa una testa così, non si capisce niente. Io, i brioni congelati. No, quello è un altro. Però Antinori, Severino Antinori, che mi hanno detto che pochi minuti fa stava battagliando dalla signora D'Urso sulla questione delle donne. Fallo sentire. Over 50, che secondo lui possono partorire tutte, naturalmente, no? Cioè, e Antinori era accompagnato da numero 6 ragazze, di cui due brasiliane, molto giovani, molto molto giovani tutte quattro. Sei da solo, è entrato con la sfilata professor Severino Antinori, stupendo. Federico D'Ascoli, vai. Grazie per la possibilità. Dimmi Cruciani. Federico, dimmi. Sì, prima che mi riattacchi ti volevo dire che voglio fare una marchetta alla fine, se posso, grazie. No, qui non si fanno marchette, no, per cui è inutile. È per un tuo amico, quindi, per un tuo amico. No, non mi interessa, dai, forza, vai al sodo, su. Niente, ieri sera praticamente si parlava dei figli di quella lì che è stata uccisa, quella ragazza con l'ombrello, e io volevo dire a Parenzo che era contrario alla pena di morte, alla pena certa e tutto quanto. Io ho un figlio di 6 anni, mi hanno dato la possibilità adesso di uccidere, perché siccome la legge non mi dà giustizia, me la faccio da solo. Se qualcosa succede a mio figlio, io vado in galera tranquillamente, non c'è problema. Cioè, questo volevo dire a Parenzo. Non ho capito, ma non ho capito niente. Non ha figli. Non ho capito, Federico, tu ti rifai all'intervento dell'altro giorno del padre della ragazza? No, della mamma della ragazza, no, che dice che praticamente quella straniera che dopo 9 anni è uscita. Quello, allora? Io, se qualcuno fa del male a mio figlio, succede una cosa del genere, mi faccio giustizia da solo, perché in Italia probabilmente le leggi non mi tutelano. Ma questo non lo puoi dire. Cioè, non lo dico, come no? Me ne non lo puoi dire. Ma non lo puoi dire prima che succeda, no? Non puoi sapere che cosa ti dirà il cervello. Ma non puoi sapere cosa ti dirà il cervello nel momento in cui ti ammazzano. Per carità, non, speriamo che non accada. Nel momento in cui ti ammazzano la figlia o un figlio, dai. Io su. Credo che tu la pensi come me, probabilmente. Ma quindi... no, ma non affatto. Guarda, non lo so. Non è fatto, ma è un figlio. Ah, ho capito, non li ha. Dunque non per te ne la ho tre, no? Dunque per informazione, sì, ne ce l'ha, ne ha tre, non sai nulla. Ma dunque ci vuole la pena di morte? Non ho capito. Sì, secondo me sì. La pena di morte, ma in quali casi la pena di morte? Tutti per lui. No, tutti, no, Parenzo, ci mancherebbe. No, chi ammazza, mancherebbe. Chi uccide un altro essere umano. No, capito, chi ammazza Parenzo? La pena di morte. Chi ammazza, ma certo, la... assolutamente sì. Ma, no, ma certo, sì, no, beh, certo. Ci vorrebbero pene che però vengono poi, no? Ci sono le pene. Sì, ma certo che ci sono le pene, ma... Parenzo, ma gli ergastoli non sono mai ergastoli, 20 anni non sono mai 20 anni, eccetera. Non c'ho più un figlio, io, non c'ho più un figlio, 15 anni in carcere e poi escono. Ma cosa dici, Parenzo? No, ma scusi, ma sembra che io difenda gli assassini. Però. Ma infatti, sembra che io difenda gli assassini, e questo è il punto. Nel caso della signora Doina, sì. Lei ha fatto, è stata condannata a 16 sì, anni. A ne ha sconta. È stata condannata a 16 pochi, anni. Pochi, sì. Pochi. 16 anni. Ma non lo stabilisci tu, lo stabilisce il codice. Secondo me, pochi. Perché i giudici hanno ritenuto che non c'è. Parenzo. Perché i giudici hanno, giustamente, ascoltalo, evidentemente. Ascoltalo, però. Sentiamo. Allora, se vuoi che risponda, no, rispondo, se no fai parlare. Sì, ma Parenzo, Parenzo, la ragazza è stata condannata per l'eternità, lo capisci? Ma non c'è ombra di dubbio, ma non ci sarà mai e nessuna allora, pena che riporta in vita quella povera ragazza. No, lo stato di diritto è un'altra trovare, cosa. Capito? Se no c'è la legge del taglione, deve no? In Occidente, in Occidente funziona laddove il diritto è sviluppato, che a morte non segue morte, capito? Questo si chiama diritto. In e altri allora, posti, negli non stati islamici in invece, maniera. Evidentemente quelli che piacciono a lei, c'è la pena di morte. Questo va bene, ciao, ciao Federico, no, andiamo bene, a Lecco, Dennis. Vabbè, una va favorevole alla pena di morte, lascialo parlare. Sarà favorevole... di dire, ma bene, sarà favorevole alla pena di morte? Niente. Si potrà accogliere bene, nel campo la della... discussione dicendo bene. No, maledetto, ma... maledetto, infame. Bene, Franco Da Lucca, no? Ma semplicemente... Si dice, bene, si dice male, ma semmai. Semplicemente detto che è a favore della pena di morte. Male, quindi. Si, no, si, ma si potrà essere, come dire, si potrà accogliere questa opinione, no? Anziché bene, male, si può dire male. Per me bene. Invece lui dice bene, Franco Da Udine. Cosa vuole Franco Da Udine? Maledetto, a casa tua. Tua, portateli. Ma chiudi quella boccaccia lì, cazzo, mamma mia. Ma vai. Radio perdi tempo, radio paraculo, giusto? Eh? O mi sbaglio? Su, infatti benvenuto. Allora, sta chiamando, volevo farti due domande cruciali. Sì, voglio sfidarti. Voglio sfidarmi addirittura anche bravo, cosa? Perché cosa? Sfidarti ogni tanto qualcuno che ti sfida. Ma sì, va benissimo. Se non perché... mi censuri prima. Sì, che ma metti giù col mix. Se vai veloce, evitiamo di perdere tempo in queste cazzate, appunto. Dai. No, allora, uno vorrei sapere, visto che fai marchette per i bordelli svizzeri, io non faccio nessuna marchetta, amico mio. Nessuna marchetta. Non conosco nessuno, per cui non faccio nessuna marchetta. Ci sono le dogane bloccate per colpa tua, dai. Le dogane bloccate, ma non ho nulla in cambio, guarda. Tra l'altro, in quelli del Ticino non sono mai andato, se non una volta a girare un programma, per cui non li ho mai frequentati quelli del Ticino. Non è detto che non lo faccia, poi? Benissimo, la seconda cosa è questa. Come mai parli tanto di Salvo Mandara, di tutte queste sì. Due nuove trasmissioni? Mandara, signor a... Mandara, non parlo mai delle trasmissioni. Ogni tanto lo chiamiamo per fare qualche battaglia radiofonica. No, tu la censuri, carissimo, perché... Senti, se io censuro Mandara, tu sei Matusalemme, capito? Ce l'abbiamo chiamato tante volte qui, per cui non diciamo cazzate. Forse lo chiameremo anche oggi, però, Dalle 18.33 alle 20.50 ho solo un chiodo fisso in testa. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Io non riesco a togliermi di testa la scena di Parenzo che bacia una ragazzina davanti ai puffi e queste cerebrolese che stavano lì a farsi baciare da Parenzo davanti ai puffi, no. Parenzo, tu devi ringraziare il tuo iddio che ascolto la Zanzara sempre col podcast, perché prima o poi lo becco il giorno che sono in diretta, che l'ascolto in diretta, chiamo e ti mangio vivo, te e i vegani. Ciao. Allora, a proposito del referendum sulle trivelle, di cui non frega nulla a nessuno, caro sì. Parenzo, nulla, nulla a nessuno, e secondo me fallirà miseramente. C'è questo referendum. Ospite al mio non fianco, si può, eh? Non si può chiamare la gente ad andare a votare su cose difficilissime. Il prolungamento fino a quando si può sfruttare un giacimento oppure no. Ma perché le persone dovrebbero pronunciarsi su tu queste cose qui? Tu pensi che le persone siano stupide? No! Sì, fino tu a pensi quando... siano stupide? Ma no, ma non è una invece roba... i camionisti ma non c'entra niente, è una roba che deve risolvere la politica. Ma fino chi a qua... te l'ha detto? Ma riguarda dai. I territori. Va bene, d'accordo. Riguarda, allora, che le ma non c'entra niente, fino a quando si può sfruttare un giacimento? Sì. Ma sono già quasi la tutti sfruttati. La domanda è semplicissima. È semplicissima. Vabbè, d'accordo, hai ragione. Perché fai la gente più stupida di quel ma che non è la, io non voglio dire che la gente è stupida. No, tu dici perché si portano le persone no, a votare. No, ma le persone non si possono portare a votare su tecnicismi di questo diretta. Tipo. No, ma la democrazia diretta, meraviglioso, su alcune questioni fondamentali. Va bene, d'accordo. Sei contento tu, vedrai che fallirà miseramente. Ma certo, io voto no poi, ovviamente. Io voterò miseramente. No. Meraviglioso scontro, credo, a virus tra Sallusti e il giornalista dell'Espresso che ha fatto un'inchiesta sui conti all'estero, quelli a Panama, no? Sui conti a Panama. Cioè, Sallusti e Malaguti. Si ha detto, ma se uno è ricco, porta i soldi dove gli pare. E se uno è miliardario, beato lui, i soldi li mette dove diavolo vuole, non deve renderne conto. Né all'Espresso, né a Sallusti, né a Sallusti, come mai allora cosa, lui finisco, scusa, non ti ho interrotto. Cosa no, io diversa? Ti faccio una domanda. Cosa come diversa? Mai tu pensi 100 nomi se non c'è sei il conduttore, le domande le fa poco, non le fai tu. Nel, cosa diversa? Cosa diversa sono questi? Ma allora parla tu, hai già parlato? I famosi conti di Briatore sono stati posti all'attenzione del Tribunale di Milano, che è una procura non certo a cui Briatore sta simpatico, pochi anni fa, e non è stato preso nessun provvedimento perché quei conti erano assolutamente a norma di legge. Questa è la verità. Come forse Sallusti saprà, Briatore è stato condannato a Genova per evasione fiscale. Non per quei conti, non per quei conti. E allora, diciamo allora sei un mascalzone, Sei un mascalzone. Effettivamente non è stato condannato per la vicenda dei conti all'estero, ma per quella vicenda della barca lì, dell'uso della barca, dello yacht. Che c'è, Sallusti? Che c'è? Ma è normale, uno ha tantissimi soldi, un miliardario, li mette dove vuole, Panama, Cuba, dove cazzo vuole. Mica siamo comunisti. Però ragazzi, il top assoluto, se volete anche del trash, il top assoluto è stato raggiunto qualche istante fa dal professor Severino Antinori, ospite della D'Urso. Si è messo a parlare di una faccenda che gli sta a cuore. Io lo incontro negli ultimi giorni spesso a un ristorante e mi dice sempre le stesse cose, cioè hanno sequestrato 6 embrioni in una come clinica. Sì, hanno sequestrato, i carabinieri sono andati in una clinica dove opera lui e hanno sequestrato 6 embrioni. Si vede che ha commesso qualche illecito, no, non lo so. Ma... lui ovviamente ne dice di tutti i colori. È iniziata questa galoppata con la D'Urso di questa cosa dove non si capiva nulla. Però vi faccio un piccolo esempio, i 6 embrioni. È no, possibile vabbè. In un paese no. Dove ci sono 6 milioni di copie bambini che qualcuno mette fra i fra loro italiani? Vabbè, però non che si capisce fare. A casa quello mi fa parlare, dici. Se lei non mi fa parlare. Ma come non ti faccio parlare? Stai parlando ma non allora, si capisce. Rivediamo, no. Allora 6 giorni fa è venuta... Allora da capo, giorni fa, aspetta che spieghiamo. 6 giorni fa è venuta una battuta di carabinieri, allora, chi si chiama di Milano? Con carabinieri, sembra un terrorista armato di tutto punto. Non lo fanno perché ma con l'accusa che tu avevi prelevato degli ovuli senza consenso? Senza consenso, avevo tutti i consenso. Consenso uno, due, tre, anche dell'anestesista c'era il consenso. Vero. Non solo, ma l'accusa che avevi rubato questo telefonino a questa signora. Cioè, capito, avrebbe preso degli ovuli senza consenso e poi rubato un telefonino a una signora. Arrivati i carabinieri, no, ovviamente non si capisce nulla, bisogna decrittare, nulla. Bisogna stare attenti. Ci sono le prove provate delle firme, dottoressa, quindi lei ancora insiste, purtroppo, professore... devo dire, la magistratura, io ho molta fiducia, però qualcuna però, in modo superficiale, aspetta, sequestra embrioni, embrioni, vita umana. La magistratura debba capire che è una grande baluardo per noi, ma certe persone che dicono qui in Italia hanno fatto indagini anche a chi per motivi etici andava con una donna o quella, la magistratura parla lei, ho capito. Lei così non ha capito, questi qua bisogna parlarne, questo è una repubblica costituzionale, non può avere il sopravvento con una PM, una PM, no, la PM di Milano. Fermo, io chiedo deferimento al CSM. Chiede deferimenti al CSM, fai qualsiasi cosa. Senti questa cosa qui, a ceduto comincia a parlare in inglese, no? Senti. Sì. Nel 90, guarda, dice, good morning, mi fa. Dice, ma what do you think about you? Dice, cosa pensi il Papa? Smile. Ah, the Pope. Il dice, the Pope, io detto, sorride, io come, sorride, sorride come me, troppo, perché il Papa vuole la vita. Quando parli in italiano, ho capito. Quando parli in inglese, allora, ti prego. Non fai ripetere. Allora, I know. Ti prego. Allora, non me ne vado. Tu sai come la penso? O mi fai, vabbè, o mi fai parlare? Allora. E mi fai, non ti fai sapere. No, allora, mi fai guardami, ti faccio giù cascatella, guardami, non fare mi fai qui parlare. Le sceneggiate, o mi fai parlare o me ne vado, me perché vado la risposta è vattene. Quindi non ti conviene farlo, anche perché stai parlando solo tu. Il professor Severino Antinori e il sequestro degli embrioni, manda pure a fanculo la D'Urso perché non lo fa parlare, ma non si capisce nulla, nulla, niente, niente. Massimo da Modena, vai Massimo. Buonasera Cruciani. Vai, dimmi, dimmi. Parenzo. Allora, io volevo intervenire in merito al discorso di Pisa, dei profughi. Sì, sì, dimmi. Allora, io premetto che non sono né animalista e né vegano. Sì. Però in alcuni momenti. Che c'entra gli animalisti e vegani con i profughi? Poi me lo spieghi questa cosa qua. Lo sto spiegando, adesso. Dimmi. Li trovo gli animali delle volte più intelligenti forse degli esseri umani. Perché? Perché se andiamo allo zoo, tipo l'orangotango, il leone, la giraffa, gli elefanti, fanno il loro lavoro e prendono la loro paghetta, che è il mangiare, che è il trattamento buono che hanno, insomma quello che è. Ma questi qua che vengono e pretendono così tanto in Italia, con tanti italiani che stanno male, cioè che non riescono a fine mese, cioè è una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra, cioè c'è tanta gente, tanti italiani. Massimo, purtroppo questi qua hanno commesso un errore per cui la gente è incazzata, perché quando tu protesti per il riso che è troppo acquoso e non è denso e non è magari come vorrebbero loro, beh, è evidente che stai esagerando, pure una protesta strumentale. Quando tu protesti perché sei lontano da un centro urbano e c'hai intorno cinghiali, sono eccetera, tutte polemiche futili, però perché hai visto, hai sentito ieri quello incazzato, sono, quello che abbiamo intervistato, ma quello è arrabbiato perché è quello arrabbiato era perché un uno servizio, che eccetera, si batte però per l'accoglienza, dopo che arrivano questi e fanno però non sono capriccetti, cioè voglio dire, sono alcune capricci, cose si possono capricci risolvere però senza trasformare gli scontri tra civiltà. Ma dai, che c'entra, su dai, lo scontro su del risotto. Vabbè, Francesco ragazzi, da Brescia, dai Francesco. Sì, ciao ciao, dimmi, buonasera. Dimmi. No, niente, mi sembra, siccome oggi c'è poca carne al fuoco, le trivelle, le tribune non le frega niente a nessuno. Vabbè. Io carne, volevo tornare, c'è poca carne al fuoco, lo dici tu, comunque vai, Francesco, vai. No, io magari sono un pochino in ritardo perché volevo chiamarti l'altro giorno. Vai, dai, Francesco, su, dai. Vabbè, niente, ascolta, io ho analizzato bene, profondamente, il discorso del permessi premio, tipo della Romania, quella allora che aveva infilato. E secondo me è una mossa molto molto intelligente e furba dello Stato che noi non riusciamo a capire fino in fondo. Cioè? E vi spiego perché. Io ho due bambine, sì, dico la verità. Se una di queste mie due figlie fosse infilata in un occhio dall'ombrello da questa rumena, io preferirei, gradirei, sì, che il permesso premio glielo diano dopo una settimana alla, sì, rumena. Ah, in modo che poi la puoi accoppare. Hai capito? Questo, cioè, non, tu dici non permesso premio è una spada, è veramente vomitevole. L'occasione che dà lo Stato ai parenti, secondo me l'ha capita perché lui è molto. L'occasione? Sottile. L'occasione? È l'occasione che dà lo Stato di chiudere la partita, no? Perché ah, io ho capito. Purtroppo, tu dici, viva i permessi premio, viva i permessi premio perché così stato, escono. Te la metto fuori e lì sei un padre, ti hanno infilato tua figlia con l'ombrello nell'occhio, il minimo che fai è la coppo, no? La coppo. Va bene, amico mio, ho capito perfettamente. Parenzo è inorridito, credo. Parenzo sta per inorridito vomitare, sta per vomitare. Ha detto una cosa di una gravità inaudita. eccolo qua, passa in galleria, traffico, il metro, manda il metro, dai, su, manda il metro, dopo una cosa battuta, così. Dai, su, ah, è un auspicio. Peggio ancora. Francesco, tu che cosa vorresti? La caccia all'uomo, la caccia all'assassino, ma io non faccio nessuna caccia, io dico soltanto che io vedo le mie due bellissime bambine, poi c'è anche un maschietto, meravigliose, stupende, 11 anni, 10 anni, 9 anni, spettacolari, penso che se fra 7-8 anni mi infilano, ma anche l'anno prossimo, fra 3 anni, fra 4 anni, ma anche a mia moglie, per carità, se ti infilano un'ombrellata nell'occhio, speri che queste qua vengano messe in libertà presto. Prude un pochino la mano. Vabbè, ma questo è normale. Dunque, speri che diano un permesso premio in modo da farti giustizia da solo. Io credo che però non ci arriverai a farti giustizia da solo. Tutti quelli che dicono voglio farmi giustizia da solo, secondo me sono poco credibili. Poi di fronte all'atto concreto di prendere una pistola e ammazzare l'assassino di tuo figlio, eccetera, poi alla fine arrivano, perché poi vai in galera pure tu. Allora, no, cioè vai in galera a matematico, non c'è nessuno che ti salva poi. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ma vediamo se risponde Severino, che dici? David? Sì, prova. Che dici? Prova con l'antinorone, prova. L'ultima volta finì così, Risentite un attimo. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascar, non cioè, sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Però si capiva, quando insulta si capisce, cioè, beh, quando sì, insulta, quando va all'attacco. Sentiamo. A Severia, dai. Professore. Carina. Tutte lì. I carabinieri. Sequestra gli embrioni. Sì. Sei embrione, non sei questo. Pronto, sono un embrione? CSM. Ma che c'è del CSM? Ma che ne so. Cioè, Consiglio Superiore Magistratura. Hanno sequestrato sei embrioni. E il Papa. Figlio di puttana, la magistratura, pezzi di merda. Ma che dice? Tutto così. Severino, rispondi! Francesco, provincia di Latina, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ascolta, io volevo esprimere il mio dissenso verso tuo dissenso. Parenzo. A me mi fa impazzire esprimere il mio dissenso. Ma parla come mangia, ma che sei napoletano? Cioè, esprimere il mio dissenso, ma che è? Sì, voglio esprimere il mio dissenso verso Parenzo, dissenso, perché è uno snobbino alla fine, snobbino. Ma è molto snob, è molto snob. Molto snob. Ma per nulla molto, è anche inopportuno, perché lui prima, parlando con te in riferimento del referendum, si è permesso di dire guarda Cruciani hanno capito anche i camionisti, no, contrario, è Cruciani che pensa che la gente non capisca. Io ho detto guarda che lo capiscono tutti, Parenzo, non sottovalutare i tuoi amici camionisti che invece capiscono tutto. Sopra di una categoria. Senta, tu sei lei sa dove deve andare, lei deve andare a fare in culo perché non ha capito, lei deve andare a fare in culo perché non ha capito, ma questo non è nuovo. Lei non ascolta e non capisce. Io ho detto tutt'altro. Ho detto che i cittadini italiani hanno diritto di scegliere e di sapere e si possono informare e hanno tutti gli strumenti, Francesco, per farlo. Francesco, ascolti questa voce. Vada a fare in culo. Ma detto con l'eleganza delle 19:40. Vada a fare in culo. Francesco, vai. Allora, scusami, il discorso è questo. Io ritengo che lei, signor Parenzo, pur avendo una grande cultura, ma è sprecata, perché lei è distaccato anni luce dalla realtà, anni luce, mentre Cruciani, per quanto un personaggio molto discutibile, però no, comunque discutibile più randaggio, più randaggio. Dalla realtà. Questa è la verità, lei è distaccata, in una maniera proprio disgustosa. Ma che fai, un Francesco? Proprio inappropriato verso tutti. Vabbè. Ed è la verità, lo dobbiamo dire. Io sono camionista, Parenzo, ma sinceramente sinceramente, cottolino mi ci cambio, perché preferisco vivere la realtà che sta staccato in un salottino come ci, come no, ci sta molti lei, amici camionisti, quindi non dica stupidaggini, che lei è un signorino. Ma quale signorino? Ciao signorino, Francesco, no, no, invece sì, è quello, ma è quello lei che è semplicemente un signorino, idiota, dai, sei un signorino. Lei è un idiota indipendentemente dal mestiere che fa. Come fanno molti, lei è un idiota. Ti ha dato dell'idiota, ti ha dato dell'idiota. No, ha sentito, credo, indipendentemente dal mestiere che fa. Idiota? Indipendentemente dal mestiere che fa. È così ha detto Parenzo, eh beh, sì, sei un idiota. Sì, come mai sono un idiota? Io non l'ho offesa, vede, lei non regge il confronto, lei è abituato, ce l'è facile. Adesso no. Che io le ho detto le cose, anzi, come realmente penso e come forse fondamentalmente anche lei sa che stanno così, mi ha dato dell'idiota. Io non le ho dato dell'idiota, io ho semplicemente delineato in maniera chiara e insomma, rispettosa quello che emerge dalla sua personalità. Ma però è interessante il modo di parlare di Francesco, alquanto discutibile, personalità, eccetera. Grazie, Carlo Torino, vai. Ciao Cruciani, sotto Arezzo, sono Carlo da Torino. Volevo intervenire a proposito dell'omicida in semilibertà. Sì, sì. Si è parlato più volte dell'esiguità, della presunta esiguità della pena, cioè dei 16 anni. Sì. Volevo soltanto ricordare che è stata condannata per omicidio preterintenzionale. Sì, ma lo sappiamo questo. Lo sappiamo. Ma lo sappiamo. Praticamente il massimo di quello che poteva avere per l'omicidio. Aspetta, aspetta un attimo, amico mio, aspetta. Ah. Gli embrioni sequestrati, gli embrioni sequestrati. Niente, non risponde, dai. Allora, Carlo sta dicendo che la rumena ha avuto il massimo della pena, o comunque più o meno ha avuto il massimo della pena prevista, diciamo, no? Per quel tipo di omicidio. Ma io, non metto in discussione questo, caro. Per me le pene dovrebbero essere più severe, ma lasciamo perdere la quantità della pena. È come poi questa pena viene, no? Come viene eseguita. E in questo caso, dopo 9 anni, uno praticamente considera la prigione come un albergo, cioè torni a dormire. Poi ovviamente non è un albergo. Come si fa? Ovviamente non è un albergo, ma è così. Ma ragazzi belli, ma come ma si è così? Fa? Perché no? La pensione che la prigione è un albergo, no, già ma questo. Dire, la utilizzi per dormire, in questo senso, la utilizzi per dormire. È una sciocchezza madornale. Ma che vuol dire la utilizzi per dormire? Daniele da Vicenza, vai, Daniele. È una restrizione, si chiama semi libertà. La polemica su Bialovic che avete fatto ieri, trovo sì. Indecente. Perché ma dai, come si fa? Ma avete mai giocato a calcio? Beh, allora non ho capito. Ho capito la polemica. Uno ha detto che le donne non sono in grado di parlare. La signora Satta che cosa ha vinto? Dove ha giocato? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non ha il diritto di parlare. Non ha il diritto di parlare. Non ha il diritto di parlare. Vabbè, hai deciso tu che non ha il diritto di parlare. No, ho deciso io. Hanno tutti il diritto di parlare, chiaro, hanno tutti. Se io dicessi la signora Satta non può parlare di calcio in quanto donna, verrei crocifisso. Lo dice Mikhailovic, un allenatore che stimo. Io ho il coraggio di dire, la forza di dire. Mikhailovic dice una stupidaggine. Cazzata. Bene, Daniele, hai ragione. Ma come si fa? Ma io ho allenato 10 anni calcio. E allora? Ok. Partite come quelle Milan Juve me le sogno. Io ho fatto oratorio. Vabbè, allora che c'entra adesso? Ho mangiato sabbia. Ok. Hai una tensione. Ma cosa c'entra? Esagerata. Cioè arriva questa che può parlare, che ne so. Aspetta un attimo, aspetta, amico mio, aspetta un secondo. Vediamo se riesco a parlare con sto matto. Il matto, vediamo il matto se mi risponde. Dai, su. Matto, rispondi. Pronto? No, risponde, non risponde il matto. Vabbè, allora non ho capito, Daniele. Cioè, accumuli una tensione bestiale. Cioè, tu vai, ti esonero, ti cacciano, hai giocato una bella partita, non meritavi di fare. Vabbè, dunque? Arriva la signora Satta, spara una puttanata pazzesca e questo non deve neanche non ha detto una puttanata. Ha detto semplicemente che secondo lei dentro lo spogliatoio pazzesca. C'erano dei problemi. Ma che cazzo ne sa sta qua? Ma non mi pare una cosa così grave. Ha detto... A parte che lo potrebbe sapere perché c'è il marito che gioca... Aspetta, aspetta che è il matto. Aspetta che c'è il matto. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sono Federica Raccagni, la vedova da te che l'hai ucciso Erbusco. Sì, signora Raccagni, un attimo solo che sono in diretta alla radio, ci sentiamo dopo. La sto sentendo. Ci sentiamo dopo, dopo la chiamo. Grazie, buonasera. Giù le mani da Cruciani. La Zanzara. Per le strade dell'Avana

Cioè, io lo trovo solo business questo e basta. Sono d'accordo, ma da chi è prodotto? Okay. Da chi è che lo mette in commercio? Le paoline. Pure, cioè il Vaticano direttamente. Esattamente, ecco, beh, chiaro. Proprio la vendita di Cristo, così proprio, una cosa. Esattamente, come è sempre stato e come sarà sempre da parte del Vaticano, io una credo. Cosa veramente vergognosa. Esattamente. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a lei, salve. Cioè, ma tu ti rendi conto? Almeno si affidassero per vendere la gente che lo sa vendere. Cioè, questa, scusa, ti dice, non conta quella? Un cazzo. È una operatrice di un posto quel dove... quel fedele che ha chiamato, chi è? Chi è? Come quel fedele che ha chiamato? Quel fedele che ha chiamato con quella voce così contrita. Ero io. Fastidio. Ero io. Fastidiosamente contrita. Ero io, ma dice che ce l'hanno in magazzino, ste coroncine. Ma sarà sincera, dai, basta. Ma no, non serve un cazzo. Si va a legge, vada in chiesa direttamente. Vada in chiesa, è tutto business, eccetera. Cambiate spacciatori, amici miei. No, spacciatori nel senso tecnico della parola. C'è gente che spaccia le cose che volete vendere ai gonzi che vi seguono. Perché le persone che vogliono mettersi al petto un affare in cui c'è qualche preghiera e una voce di Papa Francesco. 42.000 euro! No, no, veramente 59, siamo a marchi. La voce di Papa Francesco soltanto per 80.000 euro! No, ma no, 59! D'accordo? 59! D'accordo? Va bene, ragazzi, Dario da Milano, anzi, prima c'è Gennaro da Roma, vai, Gennaro! Gennaro. Ah, salve, finalmente. Dimmi, Gennaro. Volevo sapere volevo parlare per il referendum, che io andrò a votare e voterò sì. Io non capisco. Sì. È perché lei fa una propaganda di parte di come la pensa. Ma che lei? Propaganda? Ho parlato solo oggi, se figurati che cazzo me ne frega a me, Gennaro. Cioè... solo oggi, però. Ma ho parlato solo oggi, ho detto due parole, figurati se mi metto a parlare del referendum e le trivelle. Vediamo per anche burattini, dai, forza. Ma te al momento che dici tanto mi fallirà miseramente. Quindi invita la gente di non andare a votare. Ma no, io non invito nessuno a fare nulla, non mi interessa. Va benissimo, non... questa è una propaganda subito. Non sto invitando nessuno a fare niente, non me ne frega nulla. Tanto non cambierà niente, il referendum, anche dovesse vincere sì, e non vincerà perché fallirà il referendum, non si arriverà al quorum, secondo me. Bisognerà vedere. Tanto comunque è uguale, i referendum ormai sono stati, come dire, cancellati, perché dopo il Parlamento fa come vuole. Questo non c'entra nulla. Sì, questo male perché il Parlamento. Questo significa che non è democrazia, perché il referendum è politica, non è che la politica. No, ma io sono d'accordo con te che dovrebbero essere seguiti quelli che passano. Sto dicendo semplicemente che ormai è un istituto completamente usurato. Può darsi che bisogna togliere il quorum, non lo faranno mai, sì, ovviamente. Esatto. Ci vorrebbero quelli consultivi. In questo caso bisogna decidere su una piccola norma che riguarda per quanto tempo possono essere sfruttati i giacimenti. Io sono sicuro al 100%, ma non per una questione di ignoranza, che la maggior parte delle persone è disinteressata a questa roba qui. Tu vai a votare e voti sì. Io sono disinteressato. Ma è disinformata, ma la maggior parte anche chi vive nelle regioni dove ci sono le famose trivelle, sa che ci stanno le trivelle, è molto interessato per ragioni di territorio e quindi fa bene andare a votare. Gli altri lo stesso. Cosa ne pensa del Presidente del Consiglio che invita la gente a non andare a votare? È una cosa seria questa. Ma questo effettivamente si poteva evitare, soprattutto Napolitano, ha ragione Travaglio quando dice che in altre occasioni Napolitano ha detto che era un dovere civico andare a votare, e in questo caso invece l'ex Presidente della Repubblica non si capisce perché si deve esprimere su questi temi. No, ma soprattutto Napolitano se la prese con Bettino Craxi, quando Craxi invitò ad andare al mare, se non interesserà nulla a nessuno. Ma Napolitano all'epoca disse che era vergognoso qualunquismo quello di Craxi. Sì, Napolitano era nel PC all'epoca. Guarda, Travaglio ha detto è assurdo che Napolitano, che qualche anno fa diceva che bisognava andare a votare, adesso dica che è un referendum pretestuoso. Un referendum pretestuoso significa essere dalla parte di chi lo vuole far fallire. Secondo me un ex Presidente della Repubblica non si dovrebbe esprimere così nei confronti del referendum. Mi posso esprimere io dicendo che non vado a votare, sì. Chi se ne frega, ma non Napolitano, cioè Napolitano come la zanzara, ti rendi conto o no? Napolitano Giorgio Cruciani, lavati zozzone. La zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Cruciani, la tua trasmissione è una funzione sociale. A 40 anni, lavoro di merda, non si tromba più. Senza di te sarei passato o alle droghe o mi sarei suicidato. Grazie di esistere. We've got Allora ragazzi, oggi hanno ridotto di una giornata la squalifica a Higuain dopo il pianto napoletano, dopo le grandi proteste eccetera eccetera. Vi voglio far ascoltare però uno conduttore radiofonico molto conosciuto a Napoli, caro Parenzo, che si chiama Carlo Alvino. No, conosco solo signor lui, Carlo Alvino, il quale pare che abbia detto una cosa molto grave nei giorni scorsi, ha detto praticamente che le madri dei tifosi della Juventus sono tutte puttane. Cioè sono tutte Giulietta, ha detto, no? Accostandole al modo in cui i tifosi del Napoli chiamano quelli del Verona in queste diatribe calcistiche. So che non capisce assolutamente nulla, Carolina. No, di questo io ho letto anche un libro che si chiama Giulietta è una zoccola, esatto, si chiama, bravo, il libro, bravo. Ed è un libro con tutti gli insulti che vengono fatti negli stadi. Allora, ti faccio sentire il signor Albino in una delle sue ultime recenti performance. Via. Sono Giuseppe Natore del Greco. Ciao Giuseppe, buonasera a te, eccoci qua. Sono orgoglioso di essere un carcerato. Ah, Giuseppe è l'amico juventino di cui ti parlo. Caro Giuseppe, peggio per te. Io sono orgoglioso di essere figlio di questa terra e tifoso della squadra che c'ha la maglia del cielo e del mare. Arbitro. E del mare. Se non avevi il rigore non vincevi. Calma, stai tranquillo. Ma testa veni qualcosa. Mamma mia, non voglio portare la tua vita su una coscienza. Stai tranquillo. Mamma, tutto quanto così siete. Mamma mia, che brutta razza. Mamma mia, Dio me ne scansi e liberi. Grazie Signore di avermi fatto sano e napoletano. Ancora Alvino, la razza napoletana nei confronti degli juventini, incredibile, eh? Esci di casa, è domenica pomeriggio, vatti a fare un giro, di dove sei? Torre del Greco è uno spettacolo, la città dei Cural, gira, vattene poco un coppo lungo mare, vatti a pigliare a fresca, vatti a godere la domenica, lo dico contro i miei interessi, perdiamolo, un telespettatore, esci da casa, vai, aria, scendi per strada, conosci gente anche dell'altro sesso e fatti una bella serata, ma fatela con tutto il cuore. Dario Milano, vai. Buonasera. Senta, brevissimamente, io l'ascolto sempre, credo di capire moltissimo anche dove vuole arrivare, fa venire fuori le cose più pesanti, più gredi, più difficili, più di pancia del popolo, della gente, va bene. Però sentendola parlare del carcere, a me pare che lei si stia molto avvicinando a quei cretini che telefonano e che dicono cretinate. Perché cosa ho detto di così strano? Un momento fa. Cosa ho detto? Così strano è che il carcere, la pena, non è l'unica pena. Io non so come sono andate le vicende, non le voglio sapere. Sì, ma a me questo elogio... Ma qualcuno ha condannato una persona a 18 anni di carcere, a 16 anni, e questa ha ammazzato qualcuno, i casi sono due. O questa ha preso, come dite voi, ha ficcato un ombrello nell'occhio di una... Questo è. E allora non è da mandare in carcere, è da mandare in ospedale psichiatrico. Vabbè, ma questo che c'entra? Queste sono altre cose, dai, forza. Se invece dai. È andato in carcere è perché c'è qualche cosa, c'è stato un ma problema. Non è che tutti gli assassini sono matti, dai Dario, forza. No, un assassino che ammazza senza motivo non è un assassino, infatti, è un matto. I giudici hanno detto che non c'era la volontà di uccidere. Se invece ammazza per qualche motivo, allora va in galera. Allora Parenzo sta dicendo che c'è giudici. Ci può essere stato. I giudici hanno detto che non c'era la volontà di uccidere. Allora, Dario, che cosa vuoi dire? Per questo hanno dato una pena di quel tipo. Ragazzi, non ho ancora capito cosa vuole dire Dario. Forse Dai. Voi sapete, voglio dire che forse c'è stato qualche provocazione, qualche scontro, qualche ma non lo so, vabbè, ma allora, di cosa vuoi parlare, Dario? Di cosa vuoi parlare? Per cui ho avuto 18 anni. 18 anni si fa una pena. Ma non è che le pene sono fatte col bilancino e altro, l'unica pena è la galera. Tanto le non pene ho capito. Sono tante. E questa ragazza ha fatto i suoi 9 anni in galera. Non mi sembrano pochi. si è comportata bene, sì, la pena continua, altro. La pena continua, lo dice il codice, si trasforma in una pena. Vabbè, ma lei sta parlando di cose che sono nella, come dire, che sono scontate, cioè ci sta descrivendo, ci sta descrivendo che questa qui va in galera come fosse in albergo, di giorno va a divertirsi e poi va in galera come Alberto. Si chiama articolo 21, è un aspetto della legge, no? Dario, però scusa, non ci puoi descrivere adesso la legge, la conosciamo la situazione qual è, allora sì, che cosa vuol dire? Ma per voi quella lì doveva star dentro 250 anni? No, no? Assolutamente. Almeno i 16. Il diritto di uccidere. Almeno... Volevo solo dire anche a coloro che la vorrebbero uccidere, sì, benissimo, l'ammazzassero pure. Le figlie di questa signora, però, avrebbero poi il diritto di ammazzare quelli che gli hanno ucciso la madre. E andiamo avanti così. E non si finisce più. Ciao Dario, Mario Siena. Mario Siena, vai. Sì, io volevo dire un attimo che ci avevo di la voce, ecco, l'ho spento, credo almeno. Dai, dimmi. Mi senti bene? Ti sento, Mario, sì. Allora, niente. Che contrada sei, Mario? Di quale contrada sei, Mario? Della Torre, ma non sono proprio di Siena, sono della provincia. Beh, comunque la Torre, che è la contrada, peraltro, del nostro amico Panza. Comunque, andiamo avanti. Dai. Sono un po' sfortunato. Ma ultimamente, insomma, ci siamo. Vai, Mario, bravo, vai. Bravo. Niente, io dicevo, volevo invitare ad una riunione. Io sento parlare ormai in televisione, anche da voi, solo di animalisti e di vegani. No, veramente è una qualche giorno che non ne parliamo, per fortuna. No, no, no, ma in genere. Perché sì, le televisioni poi hanno seguito l'onda, diciamo. No? Io faccio il contadino e l'allevatore. Sì. E nel 2013 mi hanno distrutto un gregge di pecore completamente, fino all'ultima. Nel 2015 hanno incominciato con la tianina, sono un allevatore anche di tianina, hanno finito di mangiare le pecore e mangiano i costi. Gli animalisti sono contentissimi di questa situazione del lupo che vive e che si nutre e naturalmente di questi animali. Poi, ma che ci vuoi dire? Scusa Mario, che cosa ci hai chiamato a fare? Vorrei dire che questa gente dovrebbe venire a Manciano, perché noi gli spieghiamo che il lupo mangia gli agnelli come noi, e mentre per Pasqua tutti piangono gli agnellini che mangiano gli uomini, nessuno mangia quelli che mangiano il lupo e nessuno dice che fra le specie viventi da conservare anche gli allevatori. Va bene, grazie. Mauro Milano, vai. Ciao Giuseppe, dai, volevo dirti solo questo, volevo parlare del tuo compagnuccio falso, bugiardo, infingardo che ti accompagna nella trasmissione. Sì. Benvenuto, difende. Buonasera, benvenuto. E ciao, sì, lasciami parlare però. Ti buonasera miserabile, benvenuto. Allora, lui difende ladri, assassini, eccolo, puttane, zingari, lui difende tutti indistintamente, facendo la legge, bisogna vedere, bisogna indagare. Quando gli israeliani hanno invaso i villaggi palestinesi, dove hanno ammazzato con i carri armati donne e bambini, cosa sta dicendo, il signor Parenzo ha cosa detto che avevano ragione. Cosa ha detto questo? Qua? Perché parla di cose più grandi di lui? Ma lei, falsone, perché lei parla di cose più grandi di lei? Falso. Perché parla sei di cose falso più grandi di lei e che non falso conosce? Perché? Sei falso. Me lo spiega sei perché? Falso. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Parla di cose, Mauro, che non che sa è lui difende tutti. Lui difende tutti. Solo gli israeliani hanno fatto bene a entrare nei villaggi palestinesi a ammazzare la gente. Ma dipende, intanto non vedo, non so quando sono cose, accaduto, sono cose diverse. Ma non so quando sia accaduto una roba simile. La presunta difesa vabbè, dei Rom e la questione tutti. Ma no, vabbè, la presunta difesa dei Rom e la questione israelo-palestinese è una cosa un po' diversa, non è la stessa cosa. Ma eh, no, Giuseppe, non è cioè diversa. Tu dici i deboli bisogna difenderli comunque, cioè, mentre ma lui certo difende in Italia i deboli sono i palestinesi e non li difende, questo è il ragionamento, giusto? Esatto. Mi pare una stupidaggine clamorosa, ma non clamorosa di più. Capito, questa è la critica che ti fa Mauro, accettala. Ma è una uno può criticare paragonando mele con le mele, non le mele con le acciughe, perché uno dice guardi che le cose sono un po' diverse. Se uno paragona le mele con le acciughe è difficile discutere con un personaggio simile, però Mauro, per carità. Mi lasci dire altre 20 secondi? Dimmi, per dimmi. Carità. Io ho sentito l'intervista che hai fatto a Trapattoni. Beh, sì, e Juan de Cusan Milano. Sì, tra l'altro ho saputo che la RAI lo vuole fare fuori, eh. Per cui il comitato per la sopravvivenza di Trapattoni alla RAI è più vivo che mai. Non ho capito, Juan, che stavi dicendo? Io lo conosco da bambino. Sì. Lo conosco che giocava nella Frassati a Niguarda. Sì. Lui ha detto che è 30 anni che è sulla breccia, che lo conosco in tutta Italia. È un bugiardo, è 50 anni. E forse anche 60, che è un mito. Grande Giovanni. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Brugida. La Zanzara. Mm. Cruciani, ti chiamo da Austin in Texas, sto lavando la macchina, sono nell'autolavaggio e ti mando un messaggio, siamo al top. Oh, questo all'inizio sembrava Lapo Elkan, la voce di Lapo, quasi. Austin, Texas, Zazzara, anche lì il tuo europarlamentare preferito, caro Parenzo, Il tuo europarlamentare preferito. Che? Zanonato, Cofferati, no, chi è? No, che c'entra, che c'entra? Signor Buonanno, buonasera. Pronto? Buonasera, come andiamo? Pronto? Ciao, ciao, mi senti? Ciao. Ciao. No, non litigate stasera, anzi litigate. No, ma... Senti Gianluca, no. A parte che hai detto a qualcuno che vuoi sostituire, ti vuoi sostituire a Parenzo. Benissimo, pronti, finalmente. Ah sì, è vero. Ottimo, così ti dimetti dal Parlamento Europeo, risparmiamo 12.000 euro e epuriamo il Parlamento Europeo di personaggi come te, clown, e tu torni al tuo mestiere primigenio, che è quello di fare il circo in modo eccellente. A te poi non, ti voglio bene. Non arrivano tutti gli insulti che lui ti propina nelle trasmissioni, non ti arrivano tutti, secondo me. A me non è che... No, Buonanno, non sa quante volte lo insulti, deve andare al circo, un buffone, no, ma non è un insulto, cioè, io credo che te la dice di tutti i colori. La sua professione naturale sia quella dell'intrattenimento, in particolare circense. Ieri abbiamo visto che gli amici del Circo Orfei hanno rifiutato peraltro la presenza di Buonanno perché hanno paura che sputtani oltre misura. Tu hai detto pure state attenti che vi ruba il portafoglio, hai detto. Non nel, in quanto politico c'è magari il rischio che a un certo punto sottragga i soldi della cassa e scappi. Potrebbe fottersi i soldi della cassa, ha detto, capito? Ma non lui in quanto Buonanno, lui in quanto... Beh, però intanto ti riferivi a Buonanno. Ma dici Stefano, allora vuol dire che quelli che mi votano sono tutti cretini. È una ottima questione da analizzare, sì. Nel senso che è un tema. Ha risposto no, sì. No, ho detto che è un tema. Quanti sono stati quelli che hanno dato la preferenza? 24.000, credo, no? Io credo 27.000. 27.000 persone, sì. Percentualmente su circa 50 e passa milioni di italiani. 27... No, la mia circoscrizione era più piccola, poi comunque. Ma lui dice che su 50 milioni di italiani c'è una piccola percentuale di imbecilli. Dice. Ci può essere una percentuale di grandi imbecilli da quel punto di vista. Perché piccoli? Perché ridurre. Cioè, dà degli imbecilli ai tuoi elettori, capito? No, cioè, se così mi sa che Parenzo mi ha votato. Credo che vadano sottoposti. No, Davide, comunque veramente vanno sottoposti. Scusami. No, credo che quelle persone che hanno preso la loro matita, si sono recati nell'urna elettorale, hanno presentato il documento, hanno firmato per votare, sono entrati in cabina e hanno scritto a fianco al simbolo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania la parola buon anno, siano tecnicamente imbecilli. Io credo che... io toglierei il tecnicamente, però. Cioè, sono imbecilli, dunque va tolto il diritto di voto quasi. No. Io sono perché il bello della democrazia è che anche il voto dell'imbecille vale quanto quello di Umberto Eco. Questo è il bello della democrazia. Valle Sesia, Varallo, adesso Borgosesia sono tre comuni di imbecilli. Guarda, credo che ci sia la buona possibilità che a Varallo viene Mattarella il 25, presidente. Beh, Mattarella visita tutti i posti, compresi i manicomi, perché è il presidente della Repubblica. Viene in un posto e Mattarella della Lega. È una persona gentile, è il capo dello Stato, quindi anche il capo degli imbecilli da un certo punto di vista. Cioè, rappresenta tutti. Rappresenta anche gli imbecilli, dici. Ma tecnicamente dove la Lega prende il 40%, io faccio sindaco 10 anni, sono pro sindaco, viene a festeggiare il 25 aprile proprio da me. Sai, ci sono dei luoghi in cui c'è in particolare anche una concentrazione di imbecilli. No, ma adesso no, però ragazzi, io vorrei, siccome sono 27.000, e tu gli hai dato degli imbecilli, eccetera eccetera. Dico, vorrei che invitare uno per uno più gli elettori di Buonanno al Parlamento Europeo, 27.000, a chiamare qui alla Zanzara, benissimo, per dire: Parenzo, sei una testa di cazzo. Perfetto. Io sono una persona perfettamente normale. Ho espresso una preferenza. Oltre a istigare gli animali a saltare nel cerchio di fuoco, Cruciani, bisognerebbe aggiungere questo: che siccome io penso che uno vota la persona che meglio lo rappresenta, questo è il punto, ma non voglio edulcorare quel che ho detto, perché siccome io penso che ognuno vota quello che meglio lo rappresenta, se 27 o quello che sente, se no perché uno va a votare? Allora? No, non lo so, per te sarà uguale, no? Sì, allora? Allora penso che quelle 27 persone, se si riconoscono 27.000, in un essere, sì. 27.000 persone, mi fa anche fatica a dirlo proprio, cioè praticamente è un piccolo comune italiano, sì. Si riconoscono nelle idee, nella persona di Buonanno, beh, sì. Cari amici, Houston abbiamo un problema, ma è fisiologico in democrazia che ci sia lo 0,5 di imbecilli. Cioè, insiste ancora, la quarta volta. Ho detto, ragazzi, volete fare una querela collettiva? Vi invito a fare una querela collettiva. È fisiologico in democrazia che ci siano scusami, in tutti i paesi, il bello della democrazia è questo, è partito che io per la gente stasera, una grande voto, però possiamo dire una cosa, che il voto di chi vota Buonanno è uguale a quello di Umberto Eco, parenti. È uguale a quello di Einaudi. Quando Parenzo si è candidato a Padova per la sinistra, ha preso i voti dei suoi parenti. Quando gli sei candidato Parenzo a Padova per la sinistra, non ho capito. Allora, l'ottimo Buonanno ricorda bene, io da ragazzo in quarta ginnasio ho cominciato a fare politica a 18 anni, mi hanno allora PDS, candidato dove? Non c'è nulla da nascondere. Ma il candidato PDS dove? Mi candidò in consiglio circoscrizionale. Quanti voti venni eletto voti e feci, non mi ricordo quali. Venni eletto nelle circoscrizioni. Ma quanti voti hai preso? E feci il capogruppo per 5 anni. Per 5 quanti anni. Quanti voti hai preso? Mi avrò preso 300, 400, 300. Quello che era. Vabbè, ragazzi, c'è il traffico. Fermo. Traffico, veo chi là. La Zanzara. A Cruciani dico, togli Parenzo, chiama me, vedrai che faremo più audience. E poi, rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato e lui un microbo. E intanto continua il duello Juventus-Napoli. Sentite ancora qualcosa di questo mitologico Carlo Albino, Radio Napoletano, vai. Io sono un tifoso della Juve, napoletano però. C'ha un difetto troppo grave. Se lei è napoletano e ha avuto questa gioia dal Padre Eterno di nascere in questa città e di godere delle bellezze di questa città, ma come fa a non difendere la storia di questa città tifando per questi colori? Lei ha un peccato mortale che si porta sulle spalle, andrà all'inferno. Andrà all'inferno. Ma perché posso telefono? È un burattino. Ma stai guardando un po' con la televisione? Io sono un burattino. Sono un burattino. Ma tu non guardi la televisione. Parli, ti agiti. Poi attacchi il telefono da maleducato. Non c'è niente da fare. Guarda, è proprio la verità questa. L'educazione non è come le partite. Non la potete comprare. Se volevo dare un consiglio, guardatevi dietro, non guardate più avanti. Ma no, fratello caro, ti devi guardare dietro tu, perché noi da dietro ti facciamo il servizio, stai attento. Guardati dietro perché noi veniamo piano piano e ti combiniamo un bel servizio. E stai certo che il napoletano al tifoso della Juve il servizio ce lo fa. Allora, hai saputo, Buonanno, tifoso della Juve, che hanno diminuito la squalifica signor Higuain? Ma era scontato, perché se non metti a piangere dall'inizio, a frignare, non è giusto, e alla fine i napoletani hanno portato a casa qualcosina. Però non dicono più niente su Albiol, ad esempio, della settimana scorsa, che merita l'espulsione, c'era una questione del rigore per il Verona, tutti muti. Vabbè, adesso questo. Piange il telefono, dobbiamo fare la canzone di Modugno. Ah, com'è la canzone? Piange il telefono, ti ricordi? Cioè, Modugno, tu dici sono dei piagnoni, alla fine i napoletani sono dei piagnoni. Sì. Com'è che si dice? Chiagnano e fottono. Chiagnano e fottono. Tu dici che chiagnano e fottono. Abbastanza. In che senso fottono? Poi fottono nel senso che poi alla fine riescono sempre a mantenersi in qualche maniera, quindi. Però alla tu fine, la volta scorsa, vittime. Sì, però tu qualche giorno fa hai detto pure una cosa pesante, hai detto se piangessero, se mettessero lo stesso impegno nel piangere sul lavorare, non ci sarebbe un disoccupato. Vabbè, era una battuta. Vabbè, però ti sono inchiappettati là a Napoli, mi sono arrabbiati. Ma io tra l'altro amo Napoli, mi piacciono i napoletani, mi sono simpatici. Però ma ci puoi andare adesso? In parte di vittimismo. Come tutti, loro sono sempre vittime, è sempre colpa di qualcun altro, e questo non va bene. Se uno mette le mani addosso all'arbitro, deve capire che questo non lo può fare. Senti una cosa, ma ecco, no, ma è perfetto per le trasmissioni sportive, non politiche, per le trasmissioni sportive. Ad esempio, l'ottimo nostro amico Pardo dovrebbe invitare al suo Tiki Taka. Sì, questo potrebbe è essere una buona idea, meravigliosa, una buona idea, sì, una buona perfetto. Idea. Però non io si mi occupi buon anno, quindi derivo appunto, da, sì, da ma da non Napoli. Si occupi però di politica, di Islam, di queste cose sì. Qui. Si occupi di questo che mi pare anche bravo, no. Ferrato, fa battaglia, molto bene. No. Poi Higuaín, se io me lo ricordo, la finale della Coppa del Mondo si è mangiato un gol, quindi secondo me non è un campione vero. Cioè una mezza calzetta, dici tu? Come? Una mezza calzetta, ma come si fa? No, ti ha segnato 30 gol, no, ha segnato no, 30 gol, dai. Uno che ha fatto 30 gol certamente è un grande giocatore, però dai. Non è un campione. Ma se vince lo scudetto a Napoli... Se lui avesse fatto quel gol nella finale della Coppa del Mondo, l'avrebbe vinta l'Argentina, sì, cosa vabbè. Che invece non è senti, successo. Tu con la rumena cosa faresti nel caso no, della non rumena? No, non fai domande di politica. La signora Doina Matei, quella che è stata rimessa in galera temporaneamente, per, dopo, sai quel caso, beh, no? Mi sembra che non si sia pentito di niente, perché sembrava la donna più felice del mondo, quindi da una foto dunque in galera in galera. Alcune foto, dopodiché una sembrava che fosse sul Titanic, non so, con le braccia aperte, dico. Sì, vabbè, comunque... era felice di stare al mare, sì. Era felice di stare al mare. Beh, vabbè, ma insomma, che, no, dire, una no. Che ha ficcato un ombrello nell'occhio, no? Ecco, già, adesso lì, questa è la giustizia in Italia. Io l'unica cosa che chiedo, perlomeno, è che non abbia nessuno sconto. Quindi, se deve farsi gli anni 16 che anni, gli hanno dato, 16, non, sì, 16. Sta in cella 16 anni, non e va li sta fuori. Facendo, infatti. No, infatti no, li no, sta facendo. Li deve fare in galera, non, non è che fate deve disinformazione. No, è stata condannata, non è uscita. Come no? Semilibertà. Come non è uscita? La misura della semilibertà esci, vai a lavorare, prevede torni. Che tu vada a lavorare allora e poi torni a dormire in carcere, hai l'obbligo di firma, devi ma fare un percorso di firma? Quello deve stare in galera appunto. Io a guarda, anni, allora, guarda se parliamo, guarda, scusa, se parliamo se di tu Ciliegie, la semilibertà, benissimo, no, ma se parliamo di Ibrahimovic, benissimo, se parliamo di Sacchi, e che benissimo. Sono cose serie pure quelle, buon eh? Anno, se parliamo di questo o sai le cose oppure ma non è questione di saperle, ma non è questione di saperle, se uno ha fatto 16 anni e se uno prezzo 16 anni. Ma sta in galera 16 anni. Infatti è in galera. In Italia c'è la semilibertà. E infatti è stata purtroppo. Ed è in galera. Che bello. Sì, ma lei era fuori. È in galera. E l'hanno rimessa dentro perché ha fatto quello che ha fatto. Lì l'hanno rimessa dentro vedere. A furor di popolo perché c'è stata, quindi violando lo stato di diritto, credo, se, vabbè, se è così cominciando una cosa di allora, le cose. Dice, 16 anni tu non puoi avere la semilibertà. Questo sì. Dice no, sostanza. Non puoi sta in galera, punto. Sta in galera 16 infatti anni. Infatti è in galera. Sì, ho capito, sì. Però vai a lavorare e fuori più. E torni a sera. Va a pulire i bagni, cioè fa quello vabbè. Che dovrebbe fare Buonanno, se vogliamo dirla tutta. Fa quello che Buonanno dovrebbe fare, capito? Quello cosa, fa, andare in pulire galera, i bagni, no, pulire è il tuo mestiere, anche, naturale. Una cosa, Parenzo, e invece lo fa lei. Volevo dirti anche una cosa, sai la storia della pistola? Che è successo? È stato archiviato il procedimento nei miei confronti. Ah, quella che hai preso la pistola vigile lì, in quel stato caso. È stato archiviato, là. Perché il detentore della pistola, tra l'altro, sono io come sindaco. Il regolamento... Cioè, gliel'hai messa in quel posto a tutti, questa è la realtà. Però sai che cosa è successo? Che quando sono andato davanti al giudice... C'erano dei giornalisti fuori che io ovviamente non avevo chiamato. Allora? Sono rimasto stupito. No, siccome poi il giudice ha deciso di archiviare in maniera definitiva, vabbè, allora? Nessuno ha scritto niente. Beh, vabbè, ho capito. Adesso non ti lamentare di queste cose qua. Scandalo della giustizia, dai, capito? Questo sarebbe lo scandalo della giustizia. Dai, no, se invece ci fosse stato un procedimento avrebbero scritto. Ah, ma ti ha colpito Scalfarotti in Iran? Mamma mia. Quello ecco. Allora, questo lo voglio dire. Dillo. Parenzo, ti prego di non controbattere subito. Scalfarotto è un leccaculo di nome e di fatto, perché uno che è un omosessuale dichiarato, che prende i voti perché è omosessuale, difende i gay in Italia, sì? Va in un paese squallore. Come l'Iran, dove impiccano gli omosessuali, va a stringere le mani, fa tutto i salamelecchi, e quello cosa sarebbe? Quello è uno che si dovrebbe dimettere immediatamente, quello è un leccaculo del potere e della cadrega. Tu che vuol dire di nome e di fatto però leccaculo, scusami? È un leccaculo, cioè è uno che è andato a leccare il culo agli iraniani. No, però siccome hai permesso agli iraniani, sì. È andato a leccare il culo e ovviamente no, ma di fatto intende di fatto tu vuoi hai dire hai detto una volgarità. Hai detto no, siccome metaforico, no? Beh, metaforico, no, di nome, metaforico. Di nome sei, di faccia, cioè, sei la solita di nome persona. Di fatto, essendo lui un omosessuale, lecca i culi, dici. Invece di andare là e dire io a te la mano non te la do perché tu impicchi gli hai omosessuali, raggiunto uno dei livelli più bassi. Se fosse andato un omosessuale di destra, l'avrebbero scorticato gli amici gay, quelli sì, ma se avessi detto gay, solo questo uno poteva anche tutti discutere. Zitti. Dove sono hai i detto che si una cosa di una zitti, volgarità inaudita. Hai giocato sulla omosessualità nota e dichiarata dell'onorevole Scalfarotto. Hai giocato su questo. E io credo che tu veramente cosa, perché hai detto, io perché hai detto hai leccato il culo, è un leccaculo di nome e di fatto, hai detto. È un leccaculo di fatto, no, ma di fatto hai toccato il livello più basso, non era difficile per te. È un mentecatto, non so quanto guarda, io non so quanto il tuo livello basso dove può arrivare, cioè penso che neanche le trivelle a 12 miglia dalla costa, neanche quelle trivelle della Total, della Scelta, Guido, non so di chi siano, tu hai detto di nome di fatto leccaculo di nome di fatto, perché hai detto leccaculo come se fossero gli omosessuali che leccano il culo, hai fatto una battuta, neppure quelle trivelle lì arrivano. È stato dare la mano a chi li impicca e tutti sono stati zitti, tutti gli omosessuali d'Italia, gli arcigay, tutta quella compagnia, non hanno detto niente. Se fosse andato uno di destra, ma questo l'abbiamo detto. Ma perché hai detto di nome di fatto? Perché lecca i culi, tu dici? Perché lui, no, perché? Io perché lo vedo dai, di nome no, di no, fatto? Io me lo ricordo dai, in Parlamento. Andiamo. E che fa? Io me lo ricordo in Parlamento. Che parlava fa? Esclusivamente delle questioni che riguardavano ma gli sì, omosessuali. Ma da mo che... Dopodiché, quando è stato in Iran, che ha messo giù, si è tirato giù le braghe nella sostanza, perché dando le mani a quella gente e lì che vuol dire che via di nuovo ancora di più avanti ha tirato giù le braghe trivella ancora più in basso, di essere omosessuale. Ma che vuol dire quando ti hai tirato giù le braghe? Vedete cosa vuol dire? Di una volgarità? Tutto quello che è la cosa che dice, cioè Scalfarotto si deve dimettere perché è uno così, è un meschino che invece di difendere le idee e quello che ha portato avanti nella sua vita è andato là a dare le mani agli assassini degli omosessuali. E l'altra compagnia bella, la Giannini, altra ridicola, che in Italia si mette il topless, sta in topless. Poi è andata là con il velo e noi cretini italiani quando arrivano gli iraniani gli copriamo anche le statue. Senti, e mi risulta il ministro dell'istruzione, mi risulta che quando della distruzione. Mi risulta che quando uno va in quei paesi, siccome devono portare a casa degli affari, il denaro non fa mai schifo a nessuno. Per educazione tengono per educazione, invece noi e rispetto di quel paese, dopo non perché non abbiamo la spina dorsale compriamo le statue. Vi devo lasciare, ciao ciao ciao. Crociani, la mia ragazza ti odia. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 0024, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top, siamo veramente al top. Allora ragazzi, Stefano da Chiasso e la sua Iside, qualche giorno fa alla Zanzara dal Maxim, in diretta dal Maxim. Sono donne bellissime che lo fa fanno schifo, di lavoro, non è un sofficino Findus. Non è un sofficino Findus o l'hamburger. Guarda, ma scusa. Ne passo una, se comunque, vuoi, se lei comunque, se no, lei passami una rumena, che parla italiano, qualcuno che parli chiunque che parli italiano, dai. Vamo. Ti passo una mia cara amica italiana. Sì, sì. Pronto? Ciao amore, pronto? Come stai? Ciao no. Amore mio, come ciao, stai tesoro? Tu? Chi è? Senti, ma dove lavori? Maxim? Sì, al Maxim di Chiasso. Il Maxim è il top come locale, no? Ma secondo me sì, anche perché sai, prendendo la linea italiana è una comodità, infatti insomma vengono in tanti proprio per questo motivo, è comodo, nessuno si accorge di nulla. Ma lei non si rende conto di essere un prodotto di un supermercato, signorina? Mi scusi. Ma no, poverina, perché ma la devi trattare? Mamma mia, ma che amico hai? Ma quale sì, ma di supermercato? Assolutamente no. No, ma non è un hamburger. No, ma dimmi la verità, cara amica, tu lo fai tutta perché da mangiare. Tu lo fai perché ti piace, naturalmente, piace perché guadagni. Bene, ti piace e guadagni. Ambedue. Ti senti schiavizzata? No. Schiavi cosa? Ma scherzi. Ti senti una schiava, cioè, È felice, basta, benissimo sì, allora. Mi sento una schiava quando stacco di lavorare, cazzo, torno alla vita, chiamiamola normale. Quanto guadagni al mese, così per curiosità? Tanto, ho paura che potresti sentirti male se te lo dicessi. No, dimmelo, ti prego, fammi sentire male, ti tanto, prego. Tanto. 20-30 mila al mese, 20-30 al mese, li fai? Ma 30 no, ma sulle 20 sicuramente. Ma quanti anni ha lei, signorina? 26. Ah, vabbè. Ma non ha mai pensato di fare, io per carità rispetto moltissimo questa sua scelta. Ha mai pensato di studiare? Di fare un altro lavoro, ma non solo studiare, ma un altro lavoro magari. Sì, studio, quando abbasso i pantaloni devo dire studio bene ciò che mi trovo davanti, proprio molto bene. Chiaro, ho capito. Sei la numero uno, come ti chiami? Iside. No, okay. Puoi dire quello che vuoi, no, di quello che ti pare, non sarà sentire questo qua. Dimmi. La cosa più buona è la panna in bocca di un uomo, non c'è niente da dire. Ma non sì. Aggiungo altro perché altrimenti. Non aggiungiamo altro. Non l'ha detto. Ti ripasso a Stefano perché devo andare, un cliente che mi aspetta. L'ha detto in maniera poetica. Poetica, fa schifo. Beh, ma poetica, grande poesia. Ma nessuna poesia, ragazzi, fa schifo. Purtroppo è pieno qua e ho un amico che mi aspetta. Hai ragione. Un bacio, tesoro. 20.000 al mese. Maxim, ciao. Ciao, tesoro. Josué, provincia di Varese, vai, credo che abiti a Borgo Sesia, mi segnalano, Josué, vai, dimmi. Pronto? Sì. Sì, ragazzi, però non si sente. Josué? Io ti sento. Vai, parla però, dai, parla. Non solo abito a Borgo Sesia, ma ho stato anche buon anno, quindi volevo parlare con quella persona che ti siede accanto. Vai, parla. Eccoci qua. Visto che tu mi hai insultato, non conoscendomi, dicendo che visto che ho votato buon anno sono un demente, sono una persona... Un imbecille. Allora beh, sai, ognuno vota chi lo rappresenta meglio, eh? Fammi parlare. Se tu sei... se lei è rappresentato da quelle idee, da quella persona, da quel modo di gestire la politica, beh, il mio giudizio non può che essere quello. Vai, Josué, dimmi. La rispetto, figuriamoci. Josué, non si sente. Vabbè, Massimo Ragusa, dai ragazzi. Ciao. Dimmi. Luciani, ciao, senti, brevemente, io praticamente mi sposo la prossima settimana e sto andando con 10 amici a Malta, sono all'aeroporto di Catania. Sì, state andando a Malta, volevo... Scusa. Alla Valletta, molto bella. A che fare a Malta, addio al celibato. No, andiamo a St. Julian, Parenzo, no, alla Valletta. Vabbè. Volevo dire, il padre di un mio amico mi ha consigliato di visitare il bordello di Malta, ma tu hai... Le famose puttane maltesi dei film, di un film di cose. Ormai vedi, ti chiamano per questo, però è interessante questo fenomeno. Io su Google non ho trovato riferimenti, non è che e quindi giustamente chiamate Cruciani, sì, ma questo anche... Non ho capito, Massimo, ragazzi, però non vi accavallate, cazzo. Allora, no, lui ha telefonato perché vuole avere da te, siccome ti considera un esperto. Ma se tu non mi fai capire quello che vuol dire, quello che lui vuole dire, non riesco nemmeno a dargli un consiglio, eventualmente. Dai. Praticamente il padre del mio amico Carmelo. Bene, mi ha detto, il padre del mio amico Carmelo. Che ti ha detto di andare a Malta detto, in un bordello? Benissimo. Mi ha detto andate a Malta. Già, insomma, non è normale. Comunque. Bordello di Malta. Famoso bordello di Malta. Non ho idea, non sono mai stato a Malta. Anzi, una volta. Sono stato una volta tanti anni fa, ma non so, non conosco i bordelli di Malta. Mi dispiace, Massimo. Penso che ci siano delle guide online molto, molto. Come no, dire, no, non ho trovato niente su Google. Ma che vuoi da me detto, allora? Adesso va bene, Giuseppe, dai, va bene tutto, ma io non lo so, non conosco Malta e dunque e di conseguenza non conosco nemmeno i bordelli di Malta. Che ti devo dire, Massimo? Vabbè, ma male che va, dico, quando arrivo posso poi richiamare e dirvi... Ma poi chiamami lunedì e dimmi com'è andata. Dai, Massimo, adesso stiamo quasi per finire. Ciao, bene, ciao, dai, ciao. Siamo lunedì. Ciao. Allora, tu sai quando c'è questa cosa della trilateral, Parenzo? La riunione dei cosiddetti potenti della Terra, no? È una riunione normalissima di persone che si incontrano e giustamente discutono i problemi, l'economia, le questioni come allora, Rotary, come... Come ogni anno, il nostro amico Salvo Mandarà... Amico tuo, ma non importa. Ho detto il nostro amico Salvo Mandarà va in missione contro la trilateral. Sì. Salvo... Ciao Giuseppe, non è corretto quello che hai detto. Mamma mia, adesso comincia con le correzioni. Comincio con le correzioni. Se tu dici cazzate, io dico che cosa io ho detto, non vado dimmi. In missione, io non vado e a Roma alla tirata. No, io sono informato che c'è questa riunione di criminali che si incontrano questa volta a Roma. Sì, sono criminali. Chi sono è criminale? Chi gli è italiani, criminale? Perché gli italiani che vanno lì praticamente vanno contro alcune leggi. Per esempio la legge Anselmi del 92. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero. È tutta la luce del sole. Non è vero. C'è una legge. Ma si una sa legge che si incontrano, si sa l'albergo ed è. Ma questo è matto, veramente. Sì, sì, queste sono le solite stupidaggini. Si sa l'albergo, si sa chi si incontra, ma non si sa di che cosa si parla. E se tu ma che perché se tu vieni a casa mia, mica devi sapere di cosa si parla. Se tu vieni a casa mia, se faccio una riunione a casa mia. No, quando vanno delle persone che ricoprono degli incarichi pubblici, si deve sempre sapere di cosa si parla. Ma chi ci va? Allora, dimmi un attimo, matto, Salvo, chi ci va? L'Italia mi risulta che ci sia, questa è per me una novità, io non lo sapevo, pensavo solo che partecipasse al Bidelberg la signora Monica Maggioni, l'amica di David Parenzo, presidente della RAI, allora la presidente della RAI, purtroppo che non l'ho mai conosciuta, due però segreti. Non sono segreti da una parte, sono segreti, ma ci sono, ci sono gli indirizzi, andate pure voi, quali segreti? Ma io non perdo più tempo ad andarci, perché tanto queste qui comunque sono in effetti degli specchietti per la lodole, giusto per così la gente. Vabbè, non ho capito, Salvo, ma che vuoi fare contro questa trilatera tu, concretamente? Ma io contro la trilatera non faccio niente, io cerco di. E contro la Maggioni? La e contro la Maggioni? Ma cosa vuoi che faccia contro la Maggioni? Sono solo dei servi, io contro i servi non faccio niente. Io invece sto cercando di svegliare un po' le coscienze delle persone. Che cosa? Con il mio tour dei coglioni, Italia Tour. Ma il tour lo fa Vasco Rossi. Ecco, bravo, Vasco Rossi fa i tour. Vasco Rossi fa i tour di canzoni. Io faccio un tour di ma non c'è nessun tour, vai da solo in treno, parti da solo, arrivi in albergo e parli davanti a quattro persone. Non c'è nessun tour. Ti dico di più. Come non c'è nessun tour? Ti dico di più. Ti dico di più. L'altro, quando tu mi hai detto ci sarà Mandarà, io cosa ho fatto? Sono andato per la prima volta a vedere che cazzo è questo Mandarà, il sito suo. E ho visto una diretta che ha fatto. Gira con questa faccia, con questa faccia inquietante, poverino, e la sua non è un problema, ma questo è il meno dei mali. Con una telecamera, telecamerina che è un telefonino, con un telefonino, era in Piazza Duomo, girava in Piazza Duomo, la gente, nessuno lo cagava, faceva domande. Guardate la diretta di Mandarà e guardate cosa fa. A un certo punto ha parlato con un piccione. C'era un piccione. Ti assicuro, c'era un piccione. Siccome anche i turisti non lo capivano, ha parlato con un piccione. Allora, ritenere pericoloso Mandarà è come ritenere No, Salvo, con un piccione. Ti assicuro che parlava con un piccione. Ma veramente parlavi con un piccione? Parlavi con un piccione? Intanto ha ripreso un piccione e parlava col piccione. Ma parlavi col piccione o no? Aspetta, piccione o no? È un bugiardo, perché l'ho intervistato, abbiamo fatto un'intervista ma di chi? Un'ora. Il come piccione? Fa adesso a dire no, Parenzo? Ma lascia perdere, ma hai quindi come fa a dire che non mi conosce? È vero, ma certo che lo conosco, so ma benissimo. È vero che parlavi col piccione o no? Non avevo mai visto la trasmissione. Io non parlo con i piccioni perché non conosco la loro lingua, mi piacerebbe. Però inseguiva col telefonino invece questo piccione che era l'unico che gli dava retta, evidentemente. Con migliaia di esseri umani nelle piazze, domani qui a Bologna. Ma con nessuno, ma non c'ho tempo da perdere. Carlton, Bologna, ma che me ne frega. Qui a Bologna, Salvo, parliamo del Italia Tour. Vabbè, Salvo, però no. Su Facebook, vabbè, non ce ne frega niente. Italia ma è vero che sei diventato vegano pure tu? Ma è dal 2011 che sono vegano, mica da ieri. Sono 5 anni ecco che perché, sono vegano. Ecco perché sei così smunto. Ma chi gli paga queste trasferte? Ma io sono sempre stato smilzo. Ma come le paga queste trasferte? Che ho, da quando sono vegano non le avevo prima. Cioè, capito? Scusa, non ho capito. Anche tu pensi, per esempio, che si trombi meglio da vegani? Questo è un tema ma che io non mi ho mai interessa. Avuto difficoltà a trombare né prima né dopo. Dopo di trombare. Questa però un po' diciamo una balla, che l'energia sicuramente fa a bomba. Ci sono più energie. Assolutamente. E dunque tu pensi. Non sei energie per digerire, capito? Ce l'hai tutte disponibili per fare altro. Dunque tu pensi che sia in corso una strage da quando c'è l'uomo, una strage di innocenti praticamente, cioè gli animali o no? Noi siamo 7 miliardi e ci sono 50 miliardi di esseri viventi che vengono stuprati. Come tutti, ti sei messa a ridere l'altra volta quando io ho detto stuprati nella mia trasmissione che hai ripreso, grazie stuprati. Per vabbè dai, stuprati sì, poi le mucche non hanno il gusto una volta nella vita di trombare con un toro, va il veterinario e gli mette le insemina in modo artificiale, non sanno neanche come è fatto un toro le mucche, poi subiscono il rapimento dei loro vitelli, non danno neanche una goccia di latte ai vitelli, i vitelli vengono tenuti un pochino. Se sono maschi vengono squartati, cioè praticamente subito, una strage, uno stupro, stupro di animali. Chi gli paga le trasferte? Fanno una vita miserabile per quel tempo necessario che per poi fa? Poterle trucidare e farle finire sul come piatto. Fa ad andare in giro per tutte queste cose? Chi gli paga? Io ho lavorato per 20 anni come uno schiavo, come sei ancora tu, caro David. Schiavo. Okay. Sì. Gli hai detto anche sionista, gli hai detto e anche perché sionista. Butti via i soldi? Lui è un servo sionista, io ero solo uno schiavo non sionista. Vabbè, poi ho smesso dopo 20 anni, ho dato le dimissioni, adesso vivo con le donazioni che le persone mi fanno sul mio portale. Vabbè, questo è interessante. Lo interessante è individuare le persone che fanno le donazioni. Questo il è interessante. Tour... Io ricevo poche. C'è gente che fa donazioni per uno che intervista piccioni. Anche su questo sarebbe da ragionare. C'è un signore che intervista dei piccioni e ci sono degli altrettanti che danno dei soldi per uno che intervista piccioni. Non ne posso più. Vado via. Ciao. Buonanotte. Parenzo, fallo tu un crowdfunding, vedi se ti danno qualcosa. Manco un centesimo ti arriva. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.